Riprendiamo il nostro safar. Viaggio a chilometro zero alla scoperta di uno dei volti più nascosti ed affascinanti di Napoli. Il suo sottosuolo. Ve ne indico alcuni. Alle spalle di piazza del Plebiscito, ad esempio, in vico del Grottone, si può accedere al tunnel borbonico. Re Ferdinando II di Borbone lo fece realizzare con lo scopo di creare un percorso per i soldati e di procurarsi una via di fuga in caso di pericolo. Fu poi utilizzato come rifugio antiaereo. Pensate che tra le tante famiglie che qui trovarono riparo si rifugiò anche il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con la sua. Un luogo ancora più suggestivo e a tratti inquietante è il cimitero delle Fontanelle. Fu scavato nella roccia, quella di tufo, della collina di Mater Dei ed utilizzato a partire dal XVI secolo per accogliere i cadaveri delle vittime delle varie epidemie, dei terremoti, delle eruzioni. Una sorta di fossa comune per seppellire tutti quei poveri che non potevano permettersi una degna sepoltura. Ovviamente non c'era alcuna possibilità in quei resti di poter riconoscere i propri cari. Fu così che i fedeli iniziarono a prendersene cura. Lucidavano i teschi, gli attribuivano addirittura dei nomi, pregavano e portavano fiori. Nacque così il culto delle anime pezzentelle, ossia povere, che si diffuse ampiamente tra la popolazione in cerca di qualche grazia. Se però la grazia non arrivava e quindi l'anima pezzentella non faceva il suo dovere, le attenzioni diminuivano. In alcuni casi veniva abbandonata oppure sostituita con un'altra. Un culto quindi ricco di superstizione che la Chiesa non vedeva di buon occhio. Tanto da indurre nel 1969 il cardinale di Napoli a proibirlo. Ritrovamenti storici, leggende e misticismo fanno parte della vita quotidiana dei napoletani, come la storia del signor Vittorio e della sua umile abitazione nel centro storico. Infatti qui si trovano una serie di antiche abitazioni poste a livello della strada, costituite da una sola stanza, chiamate Vascio, il Basso. Sotto il letto del signor Vittorio vi è una botola con dei gradini che portano ad un cunicolo. Signor Vittorio usava questo cunicolo come cantina, ad esempio per conservare il vino al fresco nel tufo, non potendo neanche lontanamente immaginare che la sua cantina in realtà era il corridoio di scena di un antico teatro romano. Leggenda, storia e mistero fanno parte di un'unica trama che rendono unica questa città fondata dai greci 3000 anni fa. Ma torniamo in superficie, alle origini stesse della leggenda di Partenope, poiché vi ho già raccontato sull'isolotto di Megaride, quello stesso dove le correnti trascinarono il corpo senza vita della bella sirena. Qui troviamo Castel dell'Ovo ed ancora una storia da raccontare. Questa leggenda di origini medievali vede protagonista il grande poeta latino Virgilio. Tra l'altro, nel parco virgiliano a Piedigrotta è custodita la sua tomba insieme a quella di Leopardi. La leggenda narra che Virgilio, famoso non solo per i suoi versi, ma anche per le sue opere di magia, vi avrebbe nascosto un uovo incantato all'interno delle fondamenta del castello, chiuso in una gabbia. Il luogo preciso però fu tenuto nascosto, poiché da quell'uovo pendevano tutti i fatti e la fortuna del Castel Marino. Si cominciò a credere che, finché l'uovo non si fosse rotto, città e castello sarebbero stati protetti da ogni tipo di calamità. Ma se qualcosa fosse accaduto all'uovo, Napoli ne sarebbe uscita distrutta. Nottetempo vi dà appuntamento alla prossima settimana in compagnia di Livia Napolitano, la musica dei Caiorda su Radio Libriamoci Web.